Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Come cosa vuol dire? Ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Finisce qui, finisce la partita, finisce una galoppata meravigliosa del Chelsea. Adesso il Chelsea aritmeticamente è campione d'Inghilterra. Stiamo cercando di capire, dovrebbe essere finita a Benevento. È finita a Benevento. La Spalla 49 anni dopo è in Serie A. Sta impazzendo la panchina della Spalla. Occhio al Sassuolo. C'è Rirola dentro. Iemmello 2-0. Prima doppietta in Serie A. L'Inter adesso sente San Siro. Fischia interamente contro i nerazzurri. La rampa finale che ci porta verso il traguardo, si disegna una smorfia, forse un ghigno, forse un sorriso sul volto dell'imperturbabile Nairo Quintana. Non è un colpo da KO, ma è comunque la prima vera botta alla Giro d'Italia e la mette a segno Nairo Quintana sulla Blockhouse. 13 minuti che mancano alla fine, ma il Napoli non è sazio. Callejon ancora in mezzo! Zielinski 5-0. Vettel gli concede l'esterno, se lo prende, wow. Tutto Lewis Hamilton con la staccata da paura e si prende la prima posizione Hamilton con 335 quasi chilometri orari. In mezzo, dentro ancora per Nainggolan, il tiro, rete! Nainggolan fa impazzire l'Olimpico. Gioie, dolori, facce, lacrime di giubilo, di sconforto, tristezze, gente che se ne va, nasi come quello di Nairo Quintana, molto pronunciato, in cima al Giro d'Italia, la Ferrari, tutti argomenti di cui parleremo, tutto riassunto, futuro come quello di Conte, di cui si discuterà in questi giorni. 800 24 00 24 è il numero verde. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Edoardo Lavezzana in redazione, Pierluigi Pardo al telefono. Ciao Pierluigi. Ciao. Sai chi c'è? È facile indovinare, eh? È facile. Vai. Facile. Luca, hai capito? No, chi è? Hai capito? No. Ma come no? Come godo! Hai capito? Luca Telese, dai. Wow, oddio, Telese. Ma ti manca la ti manca la fantasia, no, Pardo. Hai ragione. Lo so. Cioè, io avrei indovinato subito. Ho capito, tu lo sapevi però, dai, adesso. Sembrava un cantautore, sembrava un neo melodico. Rifallo Luca. Capito? È un barbarico yacht, perché ha visto l'attimo fuggente. Dai, gliel'abbiamo suonate un sacco di volte in questa stagione, e dopo derby, e in momenti tristi. Che fai? Le cose in memoria, ma conta. Ma l'oggi. Che conta l'oggi? Conta adesso, questa cosa fantastica, neanche i romanisti ci credeva. Come insegnano i grandi maestri zen, conta solo il momento presente, giusto? Posso subito, posso fare. Telese, è quanto di meno zen io conosca. Assolutamente, ma comunque... assolutamente. Posso andare a bomba? Vai a bomba! Cambia qualcosa con Spalletti? Secondo te? Potrebbe cambiare qualcosa con Spalletti dopo questa... Lo stai chiedendo a me? Sì. Lo sto chiedendo a te, sì, cioè se arriva secondo... A me sembra di no. Cioè, nel senso, Spalletti non mi sembra uno che torna sui suoi passi, e sono riti di congedo da Roma, secondo me, questi, però con grandi soddisfazioni. Anche la piccola sottopolemica con Totti, secondo me è proprio come togliersi l'ultima soddisfazione. Me ne vado, ma come ho voluto io, facendo quello che voglio io, vincendo come ho vinto io. Io l'ho letta così. Sì, io invece ti provo a spegnere il tuo urlo. Ma quanti punti ha perso la Roma con sta storia, sta supercazzola infinita di Spalletti? Ma io non credo che ci siano responsabilità, non credo che Spalletti sia vittima dell'ambiente o come ha detto lui. No, ma semplicemente in tutto sto casino, la Roma quanti punti ha perso secondo te, in maniera spannometrica ovviamente? No, la Roma ha perso 6 partite determinanti della stagione e la settima questa l'ha vinta. E non credo che dipenda, credo che dipenda veramente da un'alchimia fra l'allenatore, la squadra, le risorse di disponibilità. Cioè non è che le polemiche hanno fatto perdere alla Roma le 6 partite decisive, i derby, le qualificazioni in Champions, in Europa League. E credo che la squadra, questa squadra, con questo allenatore, in questo momento storico, con questa panchina, abbia ottenuto quello che poteva ottenere. Poi ci poteva stare i punti di Empoli, il punto di qua, il punto di là, ma piccole cose. Cioè non perdi le partite decisive per sfortuna, no? Ne hai perse tante, perché questa squadra con tanti pregi, tanti meriti, avesse giocato come ha giocato ieri. Ora poi tutti che dicono non c'era la BBG, c'erano le riserve, e però con una Juve molto agguerrita che addirittura era in vantaggio ha tirato fuori, qui sono d'accordo con Spalletti, la grinta, quella grinta che in altre occasioni non aveva trovato perché si era persa. Sì, non credo che ci sia una responsabilità morale. Io non sono tanto d'accordo, perché penso che abbia perso dei punti per strada, per distrazioni in tutta questa vicenda. Poi questo non vuol dire che avrebbe più punti della Juventus, che avrebbe vinto lo scudetto. No, ecco, io penso questo. Stiamo parlando di massimi sistemi. No, manca la controprova, Carlo, però bravo. Io penso che onestamente la frenata della Juve in queste ultime partite sia una frenata abbastanza calcolata, autoimposta, sia abbastanza calcolata. Quindi secondo me sicuramente la Roma ha perso dei punti, penso a Roma-Atalanta, penso a Samp-Roma. Sul derby è difficile, perché il derby secondo me insomma, è stata tale la differenza tra le due squadre che è difficile dire che la Roma l'abbia persa, insomma. Però ecco, con l'Atalanta, quella traversa clamorosa nel secondo tempo, a Genova anche qualche episodio, e questo secondo me la Roma qualcosa in più li poteva fare. Però credo che comunque se la Roma fosse stata più vicina, la Juve non avrebbe fatto 2 punti nelle ultime 3 partite. Sono d'accordo con te, c'è solo un dato statistico curioso: contro le prime 8 della classifica la Juventus ha vinto solo con la Lazio. La Juventus ha perso, ha perso anche con l'Inter di De Boer. Ha perso le 2 partite a San Siro in trasferta, in casa sua non se ne parla neanche. Ha vinto Roma e Napoli, cioè con le milanesi è 6 a San Siro, è Roma e Napoli 6, Juve 0. No, ma Juve avanti secondo me meritatamente, senza se, senza ma. Voglio dire, ho letto sui social qualche ricostruzione che mi sembra un po' fantasiosa. No, possiamo dire tutto il contrario. Sì, possiamo sul dire biscotto. Ecco, io vorrei invitare persone a riflettere. Biscotto, scusami, sono curioso. Biscotto per che cosa? Ieri sera? Non lo so, però sai che è ma per ieri sera biscotto? Sì, c'è questa ipotesi fantasiosa, assolutamente assurda. Secondo me c'è un elemento. Quale sarebbe? No, ho capito. Ho una convenienza. Sono d'accordo. Chi avrebbe avuto una convenienza? Sono d'accordo. Chi avrebbe avuto convenienza nel perdere una partita? Sto confutando, però siccome gira sul web. Sul web girano talmente tante di quelle strozzate che tenere il conto è praticamente impossibile. È come svuotare il mare con le mani, voglio dire. Esatto. Diverso è dire che certamente la Roma ha avuto un piccolo vantaggio dal fatto che la finale di Coppa Italia ovviamente sia mercoledì, la Juve ieri ha fatto delle scelte, ne parlavamo con Crosetti l'altro giorno. E sono state razionali e corrette, esatto, da parte di Allegri. Sono state razionali e corrette, certo, poi probabilmente si aspettava qualcosa di meglio. Ma sai, però quando tu al di là che Juve Crotone diventa la partita più spettacolare della stagione, poi avremo il presidente del Crotone ospite, avverto dopo le Forza sono inseguito. Senti, Teresa, stai lì un attimo che ho il traffico, poi voglio andare un attimo con te sull'argomento Totti. Convocati. Io sono del parere che è una cosa non concepibile, perché quando sei lì per prendere l'obiettivo devi avere la fame e la voglia per poterlo agganciare e portare a casa. Continuiamo a regalare punti pur avendo un discreto vantaggio, però poi le cose si complicano e nel calcio non c'è nulla di scontato. Penso che il successo vero sia stato per la squadra aver fatto vedere che persone sono. Ecco, stasera c'era bisogno di persone che hanno dei valori, e loro l'hanno sempre fatto vedere. Hanno perso delle partite dolorose, sanguinose, ma si ha a che fare con una squadra che ha un valore di persone. Questi erano Bonucci, grillo parlante della Juventus, e ovviamente avrete riconosciuto Spalletti. Luca Telese, solo in un paese come l'Italia, che tu conosci in tutti i suoi aspetti, meandri, segreti e cunicoli, può succedere nello sport una vicenda come quella di Francesco Totti? Il quale, paradossale, l'unica parola che mi viene, l'unico aggettivo che mi viene è questo: paradossale. Lui non ha ancora parlato. E allora? Ma perché tutto il mondo vuole settare a Totti quello che deve fare? Totti, da grand'uomo e grande campione, una volta ha parlato l'anno scorso, è stato crocifisso come un San Sebastiano. Quest'anno si è imposto una disciplina monacale, bella, non dice nulla, non si fa dire dagli altri il momento in cui smetterà di giocare. E allora lo dica. Riceve applausi. E allora lo dica. Quelli che amano il calcio in tutte le curve d'Italia, non risponde agli ultimatum e alle vessazioni del Totting. Ora ho letto cose, oggi il pezzo Repubblica, se n'è andato, messo. Ma scusate, ma se fosse andato sotto la curva e avesse avuto ovazioni come quelle che avrebbe raccolto, ci sarebbero state polemiche. Qualunque cosa fa, ci sono delle polemiche. Sta facendo il campionato indisciplinato, ascetico e mistico che si possa immaginare. Questo vale per tutti e due, vale per Spalletti e così come per Totti. Cioè, qualunque cosa succeda, ci sono sempre polemiche. L'esempio è ieri, e l'esempio è la settimana scorsa. La settimana scorsa, sapete, io fossi stato in Spalletti l'avrei fatto entrare, perché era un tipo di cornice, un tipo di situazione, e sul 3-1 la partita, insomma, era abbastanza ben incanalata, che secondo me gli avrebbe consentito gli è riferito a Spalletti di vivere una settimana molto più tranquilla, molto più serena. Cioè, secondo me Spalletti, nella gestione di Totti e nella gestione anche, diciamo, dei rapporti con una parte della stampa, ha commesso degli errori. Nella gestione di Totti, nella gestione di Totti, da un punto di vista tecnico, secondo me c'è pochissimo da rimproverargli, nel senso che poi Francesco è un giocatore incredibile, uno così forse non nascerà mai più. Però, insomma, francamente non mi sento di rimproverare a Spalletti lo scarso utilizzo di Totti. Totti non ha mai fatto polemiche, è vero, ha ragione Luca, si è comportato da professionista, non ha neanche mai tolto le castagne dal fuoco, cioè non ha mai neanche dato, in un momento magari complicato, una dichiarazione che potesse questo è evidente. Pier, sono d'accordo con te, però vado oltre. Spalletti non ha mai fatto mancare in questa disciplina in cui è molto abile, che è il Totting, non ha mai fatto mancare una punzecchiata, un'infamata. Cioè, hai ragione, il poverino, stiamo parlando di 7 giorni fa, vuole giocare. Poverino, come disse un giorno Maradona, meglio figlio di puttana che poverino. Disse un giorno Maradona. Senti Luca, amico mio, scusa un attimo, che gli ha fatto una domanda a Milano, era una domanda legittima, fatta con molta sobrietà, non so neanche chi sia, quindi però gli va veramente l'omaggio. Lui ha risposto in maniera sprezzante, gli ha detto: lei ancora non si è congratulato con me per la partita e la vittoria della Roma? E tu ti hai risposto: il mio mestiere è fare domande, non congratularmi con lei. Quindi voglio dire, Spalletti ha tante doti, è un uomo di carattere, secondo me è anche un protagonista, però un po' attaccabrighe, un po' provocatore. Provocatore. Cosa dovrebbe fare Totti con quest'uomo? Si buona, non lo so. Senti Luca, tanto torniamo a parlarne di sicuro. Io ti saluto, ti ringrazio, tieni il telefono acceso, perché ci sentiamo giovedì, quando la Lazio avrà vinto la Coppa Italia. Il Cagliari. Senti che grassa risata, amico mio. Ciao Luca Telese. Forza Crotone. Presidente Crotone, ai nostri microfoni Gianni Vrenna dopo la borsa. Intanto indovina chi abbiamo adesso al telefono. Pardon. Non lo so, oggi è tutto un quiz. Oggi è tutto un quiz. Tanto le schedine non ne becchi una, ne manco. Va bene, ragazzi, sto in crisi sulle schedine, dai, lo sai. Fatti riconoscere tu che sei al telefono. Pronto, sono Ciao, Pier. Ah, bello. Ah, beh, certo. Professor Sollazzo, come va? Ma va benissimo, la squadra che gioca meglio di tutti, mi diverto. Mm-hmm. E in fondo, insomma, probabilmente va ai preliminari la squadra che ha più possibilità di vincerli, quindi va bene così, dai. Abbiamo più ranking UEFA, non mi starei fossi, ecco, i romanisti o addirittura Spalletti a cercare congratulazioni per la partita di ieri, perché l'avrebbero vinta in parecchi, credo, quella Roma-Juventus, anche giustamente, perché pure io, se avessi due finali da giocarmi, ma non andrei a rischiare caviglie. Però Boris, posso dirti una cosa? Non sottovalutare, cioè, io, secondo me, mi sembra un po' ingiusto sottovalutare la prestazione della Roma. Tante volte la Roma l'abbiamo giustamente criticata perché nelle grandi partite è mancata. Ieri la Roma ha fatto una partita tosta, di grande reazione, è andata sotto nel punteggio. Ribadisco quello che dicevo qualche minuto fa, non si può pensare al biscotto. La Juve avrebbe certamente preferito festeggiare ieri. Ti prego di non mettermi in bocca. Giustamente tiri indietro la gamba nella partita in cui puoi farlo, e probabilmente devi, perché c'è una coppa e uno scudetto una settimana prima non succede nulla. Poi voglio dire, io erano anni che non ero in corsa per lo scudetto matematicamente fino alla fine, quindi sono contento lo stesso. No, detto questo, insomma, dice il Napoli. Sì, no, vabbè, poi, probabilmente non saprete di me semplicemente dalle comunicazioni funerarie a quel punto. Però non c'è il rischio. No, dico che però questo, secondo me, quello che abbiamo visto ieri è la dimostrazione di un campionato che non può più andare avanti così, con questi numeri, con 20 squadre, perché alla fine noi ci ritroviamo con la squadra che secondo me gioca meglio di tutte, che è terza, perché ha sbagliato un mese in cui Milik e Albiol non c'erano, e in quel mese il calendario gli ha messo di fronte le squadre più in forma: Atalanta, Juventus, Roma e Lazio, quelle che insomma, no, gli sono attorno in classifica, e in un campionato così poco competitivo contano gli scontri diretti, e conta quando tu li incontri. Cioè, se la Roma avesse incontrato la Juventus che abbiamo incontrato noi, probabilmente parleremmo di tanto a poco per la Juventus. Sì, per quanto riguarda gli scontri diretti, vero, Boris, scusami, la Juve in trasferta li ha persi quasi tutti. Faccio l'avvocato del diavolo: il Napoli, che ieri avrebbe vinto forse pure col Real Madrid, non lo so, però ieri ha affrontato una squadra che aveva appena parlato, ha detto eravamo in vacanza. La Roma ha affrontato il Torino alla quarta giornata e ci ha perso. Questo fa parte dei giochi del calendario della stagione. Forse sarà indiscutibile. È indiscutibile che la Roma abbia avuto un piccolo vantaggio ieri. Sarà scalzo Napoli, ma Benassi stava pareggiando al 60esimo. Poi lascia perdere che tu negli ultimi 30 minuti dilaghi, però non mi sembrava una squadra non se la stesse giocando. La Juventus io non l'ho mai vista così in 6 anni, devo essere sincero. Cioè, Buffon che sbaglia sostanzialmente 3 interventi su 3, una difesa ridicola, l'ha detto pure Bonucci, non l'ho detto io. Sì. Cioè, è la peggiore Juventus che io ricordo. Ma questo è certo, Boris, però non ci infilerei del dolo nel turnover di Allegri. È la prima cosa che ho detto io. Cioè, che con davanti 2 finali. Certo. Troppi titolari ha fatto giocare, cioè, nel senso che forse io non avrei rischiato neanche Higuain. Io da tifoso della Juventus avrei capito benissimo quella la casualità del calendario che mette di fronte 2 squadre con diverse motivazioni, ma voglio dire, se poi la Juventus avesse vinto, vale anche per le ultime 2 partite. Potrebbe valere per Roma-Genoa, voglio dire. Dico però che in un campionato in cui le grandi, cioè le prime 3, sostanzialmente devono pensare solo alle partite tra di loro, e ti ripeto in trasferta la Juventus ha battuto solo la Lazio tra le prime, ti ripeto questo dato. Ma statistico ha pareggiato con l'Atalanta. Non ne avrà avuto bisogno, certo, ma non possiamo fare i conti con i se e con i ma. Invece un'ultima cosa che ti chiedo prima di salutarti è questa: De Laurentiis e Sarri come suocera e nuora. Sì, ma poi sono 2 furbissimi tutte e 2, perché adesso, capito, è un gioco anche scoperto Sarri che io lo adoro e lo vorrei altro che Ferguson, lo vorrei come il famoso, come si chiama, Giroud, se non sbaglio, quello del suo show che è stato 37 anni. No, adesso non esagerare. Insomma, lo adoro e via dicendo. Poi anche sono due attori straordinari, dovrebbero fare film insieme, perché lui anche che fa il duro e puro, che dice io faccio, è passato alla storia per la frase io faccio un lavoro che amo e che ho fatto anche per 1500 euro, figuriamoci se mi, voglio i soldi, e poi arriva probabilmente Suning, immagino, che gliene offre 5 milioni e vabbè, ma ragazzi, sono, sono professionisti, cioè, c'è un giocatore che fa 3 gol a fine stagione, va a bussare cassa, e mi sembra che sia giusto lo faccia casare, no? Allora preferisco Lavezzi che se ne va da Napoli dicendo ragazzi, se io dicessi a mio padre che ho rifiutato 4 milioni e mezzo, mi no, ma lì c'era un discorso diverso, c'era un accordo con De Laurentiis pregresso come con Cavani, e sono storie che sappiamo benissimo. Un anno fa Sarri al rinnovo non dovuto, e lo stesso discorso può valere per Pogba, sì, al di là della quantità di soldi che ha preso la Juventus. Dai. Un anno fa l'adeguamento non dovuto di De Laurentiis a Sarri, Sarri dice mi ha trattato come uno di famiglia, quindi sono pure un po' furbi, nel senso che lui fa il duro e puro, poi alla fine è come tutti gli altri e sono felice per lui, è bene, e probabilmente lo dice anche De Laurentiis, perché poi chiaro, a me fa molto sorridere il modo in cui vengono trattate le cose del Napoli, per cui noi possiamo vincere 10-0, ma tanto la Gazzetta comunque aprirà su De Laurentiis e Sarri. Sono due frasi normalissime quelle che dicono entrambi, che vengono riportate in una maniera che chiaramente poi alla fine fa arrabbiare, perché ieri nessuno dice che Sarri dice il presidente non si deve preoccupare, se vuole mi manda via lui, non lo dice nessuno, tutti sostengono che c'è un problema con l'allenatore. Quindi che vogliamo fare? Ma questo non parlo solo del Napoli, secondo me c'è questo atteggiamento verso la Roma, verso tutto ciò che... Vabbè, facciamo un discorso di geopolitica giornalistica. Boris, ti ringrazio, ci sentiamo presto. A scudetto vinto. Non ho risposta. Abbiamo perso. Stai lì, Pardo. Tutti convocati. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, eh. E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro notizie, gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema, tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Al Servizio Sanitario Nazionale aggiungi Servizio Sanitario Personale. Vai su rbmsalute.it. Tutti convocati. Allora, Pierluigi Pardo, siamo uomini di parola, l'avevamo annunciato prima, il presidente di quella che nelle ultime 7 gare è la miglior squadra della Serie A, Gianni Vrenna, presidente del Crotone, 17 punti nelle ultime 7 partite. Buongiorno presidente. Buongiorno. Buongiorno. Carlo Genta e Pardo con lei per qualche domanda, anche scomoda, e comincio io. Avete fatto una rincorsa straordinaria, domenica andate a Torino contro una Juventus che poteva aver già chiuso la pratica, invece non è così, e vi ha detto di sfiga un'altra volta, tante volte vi ha detto di sfiga, pensa che, mi perdoni i francesismi, pensa che in caso di retrocessione abbia avuto un peso politico il Crotone, uno scarso peso politico il Crotone? Spero di no, non ho nessun rimpianto, gli unici rimpianti che ho è che la squadra diciamo ha dimostrato in questo campionato di poterci stare, sarebbe un'ingiustizia retrocedere, perché l'abbiamo dimostrato per l'intera stagione. Abbiamo un po' subito per inesperienza, un po' per forze arbitrali, però voglio dire, nessun rimpianto, assolutamente. È un campionato avvincente, il Crotone ha riaperto, diciamo, un campionato che sotto alcuni aspetti era già diciamo destinato sia all'alto che in basso, per cui l'orgoglio è questo, di aver dato un senso a questo campionato. Assolutamente no, ma dovete essere orgogliosi, e poi mi sembra anzi che questo campionato, io onestamente non mi aspettavo che il Genoa perdesse ieri a Palermo, quindi io neanche, dai, mi nessuno, sembra sia veramente un campionato al di sopra di qualsiasi sospetto, ed è bello così, ed è giusto che sia così, e ci mancherebbe altro, tutti si impegnano ed è assolutamente molto molto positivo. Io gli chiedo, gliel'ho appena chiesto da un'altra parte, però secondo me è troppo interessante chiedergli questa scelta di mantenere l'allenatore, che è una scelta così diversa, devo dire, così elegante, ma alla fine anche così vincente. C'è stato mai un momento durante la stagione, Presidente, in cui l'allenatore ha rischiato, in cui avete avuto la tentazione di sparigliare così come fanno gli altri? A dire la verità, no, perché le spiego, l'avevo anche detto prima nella domanda di prima, è una squadra viva che in questo campionato non ha mai sfigurato con nessuno. Perderamo nei minuti finali, per cui vedevamo il lavoro dell'allenatore, per cui abbiamo dato fiducia. E poi, a mio avviso, che da tanto che facciamo calcio, e molte volte quando si cambia si commettono grandi disastri, per cui abbiamo ritenuto opportuno continuare, perché voglio dire, c'erano le condizioni per continuare, non era una squadra, diciamo, morta, per cui abbiamo deciso di dare ancora fiducia a Nicola. Presidente, io ho detto molte volte, prendendomi altrettanti insulti, anzi molti di più, che Empoli, e ci metto anche il Genoa, meriterebbero la retrocessione d'ufficio se esistesse, e lo confermo, perché la loro condotta di campionato, e sappiamo benissimo come è da Natale, no, che parliamo dalla Befana, da quando è ripreso il campionato, che diciamo campionato è finito, in testa come in coda, è il campionato più strano che si sia mai visto, si è riaperto con la primavera in maniera improvvisa. Lei fa la corsa più sull'Empoli o sul Genoa? Non puoi fare pronostici e né fare la corsa, noi dobbiamo fare la corsa su noi stessi. Ci sono 6 punti in palio, il campionato ci sta dimostrando che nulla è dato per scontato, per cui sarebbe inopportuno, secondo me, fare la corsa su sia su noi. Facciamo la corsa su tutti e due, ma diciamo la facciamo su noi stessi la corsa. Noi dobbiamo assolutamente fare un risultato a Torino e vincere in casa l'ultimo con la Lazio. Oh. Poi tireremo le somme. Ma ha un giudizio sull'atteggiamento di queste due squadre? Se lo vuole dire. Per me, rispetto al Crotone, il Crotone poteva avere sicuramente qualche punto in più. Staremmo parlando di altre cose. Voglio dire, chi ha detto i lavori, no? E ha seguito questo campionato, noi un bel po' di torti arbitrali li abbiamo subiti, anche importanti, dove ci sono costati punti, però niente, ci prendiamo quello che ci hanno dato, per cui continuiamo fiduciosi e agguerriti più di prima, perché no, questa Serie A non la vogliamo mollare. Sì, devo anche dire, e spero che insomma si noti l'onestà intellettuale, che è chiaro che adesso, per come per gli ultimi 3 mesi, il Crotone è una squadra meravigliosa, le altre due hanno fatto degli errori, il Genoa ha fatto delle cessioni, però è pure vero che il campionato dura 9 mesi. Io mi ricordo anche il bel Genoa all'inizio della stagione, cioè non è che quello non vale, non è che la vittoria contro la Juve o la vittoria contro il Milan non vale, o il pareggio contro il Napoli. No, assolutamente, Pierluigi, però a gennaio la squadra è stata smontata, hanno cambiato gli allenatori, vuol dire, è come dire vabbè, campionato fatto, facciamo i nostri giochi, ma che il Crotone meriti, certo. tutta la nostra simpatia che c'è, la vedo in giro anche sul web, sui social, per la rincorsa che sta facendo, per la scelta coraggiosa di tenere lo stesso allenatore, anche per la qualità del gioco, per il fatto che è un esordiente, per il fatto che è una squadra del sud, e a me personalmente piace andare al mare andare nei posti del Mediterraneo, ci aggiungo questa piccola boiatina personale. Tutti questi aspetti la rendono ovviamente una squadra simpatica e che merita un applauso assoluto per quello che sta facendo. Detto questo, ma alla fine il campionato dura 9 mesi. Il Genoa per esempio di inizio stagione è stata una squadra che ha giocato un calcio a tratti bellissimo, certo, quindi nessuno lo disconosce, lo disconosce, sta solo dicendo che poi quel Genoa di fatto non esiste più, è durato un girone di andata. Un'ultima cosa per quanto mi riguarda, per il presidente del Crotone Vrenna, domenica a Torino la sfida, la salvezza che si incrocia con lo scudetto, vi ha detto male anche dal punto di vista, se mi consente, presidente, del calendario, Sì, questo è vero, però niente, prendiamo l'aereo e ci andiamo a giocare a Torino, perché se andiamo con un'idea diversa, la squadra ci crede, l'ambiente ci crede, la società ci crede, per cui andremo lì a fare la nostra partita. Come le dicevo, sappiamo di, lasci passare il termine, Davide contro Golia, però voglio dire, alcune volte, no? E poi posso dire una cosa, è chiaro che ieri sera, presidente, lei ieri sera tifava Juve, penso, no? Che non ci sia niente di male, insomma, è ovvio che no, assolutamente no, ma anche un pareggio andrebbe, no, certo. Però attenzione perché, no, perché alla fine è evidente che la Juve, che ha già vinto il campionato, qualcosa ti può anche concedere dal punto di vista della motivazione, però io non credo che la Juve si sarebbe divertita a perdere in casa col Crotone nel giorno della festa. No, questo sono d'accordo. Mentre questa situazione qui, che è quella di un campionato ancora incerto, rende ovviamente per la Juve ancora più importante la partita, ma potrebbe anche mettergli un po' di pressione. Sai, il Crotone è una squadra che ultimamente ha fatto risultato con l'Inter, ha sfiorato i 3 punti col Milan, cioè è una squadra che deve essere consapevole delle sue qualità. È ovvio che andare lì e pensare di poter vincere è così, da sognatori, da visionari. Però attenzione, ecco, io non sono così convinto che il fatto che la Juve non abbia ancora vinto il campionato sia una tragedia per il Crotone, cioè, c'è anche la possibilità di provare, cominciando magari forte, a mettere in difficoltà la Juve. È chiaro, quello che stiamo parlando di fantascienza, che dice, non è fantascienza, però, ha un senso, cioè forse è meglio una Juve sotto pressione, motivata, anche se è la Juventus. Ma certo, conoscendo la professionalità e la forza della Juve, la Juve che vince il campionato e lo poi anche perché casa, poi sai se, no ma punti, anche perché poi sai piace. Essendo proprio la Juventus, sai cosa ti dicono, sai cosa ti piove addosso nel caso in cui a campionato finito il Crotone vince a Torino. Questa è una chiave di lettura interessante, presidente. Presidente? Sì, no, la sento. No, assolutamente, nessuno in campionato. Noi, no? Anche in casa con l'Udinese giocavano con gli occhi, passare il termine, per cui non si pensa che troviamo una squadra di sempre. Certo. No, ma è chiarissimo. L'allenatore che fa? E l'allenatore è il nostro allenatore, con la speranza che vada in bicicletta da Crotone a Torino. Certo, c'è la famosa scommessa, lo diciamo per chi non lo sapesse, c'è una famosa scommessa fatta credo un paio di mesi fa, o forse anche prima, all'inizio di questa grande scalata di Nicola, che ha detto che nel caso tornerebbe a casa a Torino in bicicletta da Crotone, penso siano 1000-1100 chilometri. In quel caso, guardi, le mando una truppa di Tiki-Taka, la seguiamo in diretta e poi tutti i giorni alla radio, tipo Giro d'Italia. Magari, quindi lei spera che vada a Torino in bicicletta, che però torni indietro, insomma. E poi ritorni comodamente in aereo, perché sennò paga lei senza problemi. Paga lei senza problemi. Assolutamente sì. Bocca al lupo, presidente. Grazie. Grazie, presidente. Presidente del Crotone Gianni Vrenna, traffico. Siete tutti convocati. Arrivo, un attimo. Tutti convocati. Faircam Logistics, gli specialisti per la tua supply chain. Scopri di più su faircam.com. vi presenta Tutti convocati. Attenzione al 2-0 di Emi. Un disastro. Sono un disastro. Ragazzi, un disastro. Io non posso andarmene, sono per lavoro, ho rispetto per la società per la quale lavoro e quindi rimango qua, ma la mia voglia è quella di andarmene in questo momento. Come ha fatto la Curva Nord, mi sono arrivati anche alcuni messaggini, vieni a mangiare con noi, te fai due conti. Ero quasi indeciso. La società ci ha chiesto la Champions e come ho detto, siamo addirittura fuori dall'Europa League, quindi un'altra annata davvero negativa per tutti, perché penso che, come ho detto prima, si parlava di errore individuale, ma qua nella barca siamo tutti insieme e tutti hanno fatto male. Non giochiamo a tennis, giochiamo a calcio, quindi è un gruppo e qua hanno fatto tutti male. Dal telecronista tifoso a Eder, come si diceva, una celebre frase di uno storico capolavoro della cinematografia italiana recitava: un mi vengono le parole, o forse è meglio che non le dica. Sì. Ciccio Colonnese, buongiorno. A me mi fa ridere perché me le volete tirare da bocca le parole. Te le vogliamo tirare da bocca, anche perché noi altri l'amo finite. No, Pardo? Beh, insomma, è imbarazzante, eh? È oltre l'imbarazzo ormai. È proprio, io mi aspettavo una reazione d'orgoglio, comunque allenatore nuovo, anche forse un filino di pressione in meno sull'Europa League, invece anche ieri disastro. Poi non è neanche fortunata, ma ormai parliamo di dettagli. È brutto. Non vengono neanche a Ciccio Colonnese. No, anzi a me vengono. Io dico che è vergognoso tutto ciò, perché io dico sempre quello che penso. È vergognoso e mi fa ancora più. Io ho giocato a calcio e sapete che quando uno è calciatore tante volte forse non è lucido, ma la cosa più devastante è proprio la lucidità nel parlare di tutti quanti che vanno davanti alle telecamere a cercare di dire cose che secondo me peggiorano la situazione. Sì. Io ho letto, come voi, giù da casa e vedo la televisione, cioè, settimana ho letto un calciatore che ha detto dopo l'obiettivo del Champions League abbiamo mollato. Un altro, come questo che avete fatto sentire adesso in diretta, ha detto ma la società mi deve dire se no io l'anno prossimo cosa fare, cosa fa? Stiamo scherzando, cioè io penso come me tanti altri calciatori che abbiamo giocato a calcio, quando abbiamo fatto figure indegne stavamo zitti, non ci presentavamo neanche, alzavamo, cioè andavamo via dalla vergogna. Invece qui c'è il coraggio di parlare, a continuare a parlare, ma la colpa di chi è? La nostra da casa? La colpa è la loro. In questo momento l'Inter ha mandato via quattro allenatori, perché Mancini, De Boer, Pioli e adesso Vecchi, quindi sono quattro allenatori. Sono quattro allenatori. I tifosi sono sempre stati vicini alla squadra perché ha avuto sempre l'apporto di tutta la squadra, tutta la... Cioè, di cosa stiamo parlando? La società ha sempre pagato, perché qui stiamo dicendo ma l'Inter è una società, possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma in questo calcio dove ci sono problematiche tutti i livelli, una società seria che ti paga tutti i mesi, che non ti fa mancare nulla, che allo stadio c'è 65.000 persone tutte le domeniche nonostante sei vergognosamente ottavo in classifica, una squadra che ha il secondo monte ingaggi della Serie A, il secondo monte ingaggi della Serie A, io sento calciatori che vanno davanti alle telecamere a dire no, ma sai, io quella è colpa di quello, abbiamo... Ma perché non si prendono a cazzotti tra di loro? Perché nelle squadre è sempre successo. Sai quante volte io ho fatto a cazzotti con i miei compagni per risolvere i problemi? Ma credo sia normale. Il problema è questo qui, che questa Inter qui, tra calciatori, non si prendono mai a cazzotti nessuno. Il problema rimane sempre. Se si fosse sì, una bella cazzottata, non trovano un accordo, No. Io sono sincero, dico quello che penso. Nel calcio è giusto fare cazzotti, è giusto darsi qualche... Se invece si fa sempre i conigli, si abbassa la testa, si va fuori... I problemi sono questi. Dall'inizio dell'anno è questo. Questa squadra ha queste grosse lacune, che sono 24 calciatori che ognuno pensa a se stesso. Che ognuno non gliene frega niente, Ciccio. Ma è gravissimo, ma è vergognoso. La sensazione che si crea da fuori è questa, no? No, è vergognoso perché l'Inter è il secondo monte ingaggi della Serie A. Nella Serie A è una cosa incredibile. Hai ragione. La sensazione che ti rimane è che per loro mettere la maglia nera azzurra, bianca, celeste, a pallini, a pua di un altro colore, gliene frega niente. E questa è la sensazione che hai da fuori. Ora non voglio fare della retorica, però ti dà l'idea di un gruppo al quale non gliene frega niente. Sì, però, i soldi a fine mese li pigliano e allora aspettano la fine della stagione. Siccome sanno tutti, insomma, chi ha stato in quell'ambiente sa benissimo che è molto legato, come me, legatissimo, dichiarato. Io dico anche questo, che a questo punto chiunque parla e dice cose fuori luogo, parla male della società o parla male di questo, io ti faccio le multe, io ti tolgo i soldi dallo stipendio, io ti penalizzo, basta, visto che non te ne frega più nulla di niente, ok, vediamo se ti interessa se io ti tolgo 100.000 euro perché hai dichiarato che abbiamo mollato dopo la cena, dopo l'obiettivo hai dichiarato, perfetto, me l'hai detto te, non l'ho detto io, se la tua, ok, è mollato, tu sei un lavoratore dipendente, non hai fatto solamente il tuo lavoro, basta. Te cosa mi dici, che la società a me... Hai ragione, guarda, io ti ringrazio perché a me a parte non venivano le parole, le abbiamo già dette tutte. E tu ne hai dette molto interessanti. Pier, saluto anche te. Sì, secondo me ci sono anche altre le qualità tecniche, cioè un po' per me l'Inter tecnicamente è un po' sopravvalutato, l'ho detto mille volte, poi ovviamente non da settimo, ottavo posto. Tanto torniamo a parlarne domani e ne parlerai stasera a Tiki-Taka. 19:23:35, mille ciao. Cose pure sono mille ciao, cose. Ciao, ciao. Ciao Pierluigi. Allora, dopo il GR, Giro d'Italia, Formula 1, ascoltatori, tutto quanto. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. State ascoltando un programma offerto da... Al Servizio Sanitario Nazionale aggiungi Servizio Sanitario Personale. Vai su rbmsalute.it. Devo stare seduto in panchina a guardare. O puoi entrare in campo. Ricominciamo tutti ai vostri posti. E andiamo. Convocati. Peccato che non ci sia più Pardo, se no gli facevo un altro indovinello. Indovinello di cosa vuol parlare Stefano da Ferrara. E vabbè, mi sembrerà che la risposta l'avrebbe indovinata perfino lui. Buongiorno Stefano. Buongiorno a tutti, grazie per la convocazione, complimenti per la trasmissione. Grazie. Io chiedevo appunto di parlare della SPAL perché siamo andati in Serie A dopo 49 anni, scusate la voce, sono ancora emozionato da sabato. La SPAL è una di quelle squadre, mi consenta, sì, trasversali, cioè siamo tutti felici, non so quali sia, qual è la rivalità maggiore con la SPAL? Purtroppo con il Bologna. Col Bologna, perfetto. Col Bologna, sì. Ma io credo che anche i tifosi bolognesi siano felici di questo ritorno della SPAL in Serie A. Sì. Perché veramente è una di quelle squadre trasversali che mancavano da molti anni, che ha un nome strano, che abbiamo imparato a sentire da bambini da Paolo Valenti, ma per mille una ragione. Poi c'è chi... Insomma... Sa che anch'io ho 49 anni? Sì, bene. Sono nato quando la SPAL era in Serie A e l'anno prossimo la vedrò con grande gioia e con grande, esatto, con grande piacere. Tra l'altro ci giocò nella SPAL un mio carissimo amico, purtroppo scomparso, che si chiamava Enrico Muzio e che, a cui mando un bacio lassù. Parleremo di SPAL, Stefano. Tifoseria fantastica, cantiamo tutti, ci abbiamo una squadra inglese, veramente. Grazie per quello che direte, grazie mille. Grazie a lei, ci ascolti e ci guardi anche perché siamo pure in video sul web, se ne ha voglia. Sito di Radio 24 e Facebook. Enzo da provincia di Napoli, anche qui ho una mezza idea di cosa voglia parlare. Enzo, buongiorno. Buongiorno a tutti, io la stupisco. Io sono di Napoli, tifosissimo del Napoli, ma gobbo per una sera. Ah, gobbo per una sera. Ho fatto outing. Ha fatto abbiamo provato lì a farlo dire a De Giovanni venerdì senza riuscirci. No, lo ammetto. Però in ogni caso, per questo campionato, insomma, è andata così. Complimenti alla Juventus perché ha strameritato di vincere lo scudetto. probabilmente la Roma arriverà seconda con pieno merito. Adesso sto facendo del gufismo dopo aver fatto outing. Adesso sto facendo del gufismo. No, è da stamattina che parlo con i miei amici. Assolutamente. Quindi, sicuramente la Roma presumo possa arrivare seconda. Però il mio Napoli è qualcosa di eccezionale. Sì, ieri ha giocato un calcio che sembrava disegnato. Sembrava quello che giocano i ragazzini alla PlayStation. No? È qualcosa di calcio, eccezionale. Un calcio meraviglioso. Per chi fa il tifo a Cardiff? Io quando c'è stata l'altra finale, onestamente, onestamente ho un po' sofferto quando la Juve ha perso. Non lo so. Deve ancora pensarci. Mercoledì Coppa Italia? No, per la Lazio. Per Lazio la, tutta la sì, lì non, c'è, non c'è dubbio di sorta, anche per affinità di colori, che, insomma. Esatto. Per la Lazio, diciamo per cromatismo, sì, per affinità cromatiche. Se la Lazio dovesse vincere la Coppa Italia, sicuramente sarebbe più contento. Per Cardiff ti faremo Juve, dai. Ma sì, questo provincialismo, anche se io sono per il gufismo e anche Piero Augusto Stasio che ci racconta il Giro d'Italia che sta facendo un miliardo di scongiuri, ma mi sembra di vederlo. Ciao Piero Augusto. Sì. Fuori le mani, metti le mani in tasca. Saluto l'amico del Napoli, spero che sia sincero e che non abbia fatto un'azione di gufismo, come state dicendo. Senti, ho sofferto, giornata bruttissima per me. Ho cominciato a star male nel pomeriggio. Ha cominciato a star male nel pomeriggio. Comunque, dicevo all'inizio, dopo la nostra bellissima copertina riassuntiva di tutto quanto è successo nel weekend, c'era anche ovviamente il Giro d'Italia, è stata una domenica di facce, di lacrime, di sguardi, di emozioni, di... Raikkonen che consola suo figlio, di un sacco di cose. È stata una domenica anche di nasi, perché è molto pronunciata quello di Nairo Quintana, sembra un'aquila che si è arrampicato sul blockhouse. Però io dicevo, tifosi di Nibali, state tranquilli, è solo il primo assaggio. Sì, guarda, io sono meno ottimista di te, sai l'amore che nutro e ho per Vincenzo Nibali, quindi la speranza è l'ultima a morire e non vabbè, voglio. Ma siamo all'inizio. Siamo all'inizio, però il problema è che il Condor è il Condor. Ragazzi, invece dimentichiamo che questo ragazzo sa volare alto. È vero che Vincenzo è uno che chiude in crescendo sempre i giri, è uno che è un diesel. Gli metti 3 o 4 salite sopra di 1000 metri e lui vola. Però il Condor, Nairo Quintana, non è da meno. È uno che è cresciuto sulle Ande. Non sottovalutare la fantasia di Vincenzo Nibali. Tu me l'hai insegnato tu, Me l'hai insegnato tu. Io mi affido, però mi riservo solo di verificarlo domani. Glielo ho anche detto, Vincenzo, domani nella crona tu devi dare un segnale che serve anche per la tua... con la tua convinzione, perché se fa una buona crono, se riesce a recuperare qualcosa, allora lì ce la giochiamo. Se invece anche domani Piero Augusto, noi abbiamo visto anche insieme dei Giri d'Italia, mi sembra fosse Simoni, ma ormai sono anziano, che prese una maglia rosa praticamente in pianura dalle parti di Ferrara. È davvero presto, ma non lo dico per come chi urla nel bosco per farsi passare la paura del Condor. Siamo stati testimoni anche di giornate storte, di tappe strane, di quelle classiche tappe mangia e bevi che tu sei il mio maestro, in cui può capitare come fai a sapere cosa. Siamo soltanto alla fine della prima settimana, dico solo questo. Sì, ma io non ti posso dire quello che ho nel cuore, io ti dico quello che ho in testa. La ragione dice: Contador sulle grandi montagne non è così facile da battere. La ragione visto dice: c'è anche il cuore, sì. E soprattutto c'è il cuore di Vincenzo Nibali. Allora lì mi taccio. Toglimi una curiosità, ma ho detto una stupidaggine quando mi ricordo una maglia rosa presa praticamente in pianura? No, è così. Ti ricordi molto bene. Fu Gilberto Simoni? Gibo. Mamma mia, posso giocare a trivia con te e Leo Turrini. insuperabile. Non chiedetemi l'anno, ma sicuramente Turrini c'era. Ciao Piero Augusto, ci sentiamo domani. Ciao. Leo Turrini c'era. E a Leo Turrini, ecco, c'eri anche tu quel giorno che a Faenza, Simoni, prese la maglia rosa. Benissimo, quando ero sul traguardo del Giro d'Italia del 1939, il Valetti riuscì a staccare sorprendentemente Gino Bartoli, e poi si venne a sapere decenni dopo che era stato il regime di Mussolini che non voleva che Ginettaccio, che rappresentava l'Azione Cattolica, vestisse di nuovo la maglia rosa. Eravamo io, Learco Guerra, Alfredo Binda, insomma. Eri sul traguardo, no? C'eri? Un po' sorpreso, ero sul traguardo, ma adesso devo dirti una cosa, sono fermo in coda sulla Piero Cormano. Aspetta un attimo, devo far aspetta, prima ti faccio sentire io una cosa mentre sei fermo sulla Piero Cormano. Adesso si avvicina, gli concede per un attimo, cerca un incrocio, è pazzesco, Vettel va dentro e si prende la posizione, che rischio si è preso, è andato sull'erba, ha fatto la finta, mossa Ricciardo, finta a sinistra, ti prego a destra, e ha fatto un sorpasso capolavoro. Molto vicino in curva 1, va deciso Lewis Hamilton con Vettel che tiene la posizione, lo accompagna fuori, va fuori Lewis Hamilton e rientra, tiene l'interno con Vettel che tiene la posizione, c'è stato un boato pazzesco. Vettel gli concede l'esterno, se lo prende tutto Lewis Hamilton con la staccata da paura, e si prende la prima posizione Hamilton con 335 quasi chilometri orari. Lì, tutti quanti nel paddock erano preoccupati per le grandi novità che erano arrivate dai nostri main competitor, e voglio dire, la gara di oggi ha dimostrato che la nostra vettura è solida. Sarà un campionato duro ma interessante. Così ieri al Montmeló. Allora, devo dire due cose e poi lascio Leo Turrini. Giuro che non la tappa di Faenza al Giro d'Italia non ce l'ho scritta sullo schermo, come sostiene un ascoltatore, vedrai che c'è anche l'anno. No, l'anno credo fosse il 2002, ma non, su questo non ci scommetterei, fa parte della mia mente malata. Secondo, ho detto fammi un applauso Leo, per favore. Io applaudo anche metaforicamente, perché ho detto la stronzata numero 10.000 della mia carriera radiofonica. Il bimbo che piangeva ieri non era figlio di Raikkonen, però è stata un'immagine che mi ha commosso lo stesso. Adesso io intanto vorrei spiegare alla moltitudine di radioascoltatori del maestro Genta perché sono fermo in coda sulla Piero Cormano, perché c'è un enorme tir di tappi della marca Bottas. Perché in realtà ieri il Gran Premio di Barcellona l'ha vinto il sughero della Mercedes, questo finlandese B. E vi spiego, alla partenza con una toccatina, sempre involontaria, ha eliminato in un derby delle renne il connazionale Raikkonen, così la seconda Ferrari non c'era. Quel certo involontaria, l'hai detto in una maniera talmente bugiarda da guardare. Dopodiché, siccome i Mercedes non impartiscono ordini di scuderia perché loro non sono come i mafiosi italiani, eccetera, eccetera, eccetera, hanno scientificamente usato Bottas come chicane mobile. E hanno fatto benissimo. Certo, il loro diritto è stato legittimo, però voglio dire, Bottas, pilota che aveva vinto il Gran Premio precedente, quindi insomma non dichiaratamente un maggiordomo, sì, è stato usato come una versione maschile, sì, di Sabina Ciuffini. Allora Turrini, aspetta. No, ti lascio dire tutto quello che vuoi, ti lascio gli 8 minuti che mancano senza interruzione, però guardiamoci negli occhi. Guardiamo dietro questo tir di tappi, guardiamoci negli occhi, anche se per radio non si può. Sì. Fai finta di guardarmi negli occhi. Sì. Tu non avresti dato lo stesso ordine di scuderia. No, ma però non vorrei, maestro Genta, che lei dall'alto della sua sapienza professionale, mi fa intendersi. Io ho detto che è stato un atteggiamento strategico assolutamente legittimo. Però se uno va a leggere bene tra le righe dell'evento, comprende che è anche l'indice, la prova, la spia, che in Mercedes hanno paura. Perché vabbè, sì, che non paura. Utilizzano ma in questo sono mica modo. Scemi, eh. Insomma, sono mica scemi, Mi hanno detto, tu fai il tappone, non in bicicletta, Simoni, la fuga, Faenza, che tu sai lì davanti in Wikipedia, fai il furbo, no, ci vuoi ingannare tutti. No, non fare così, te lo giuro. Che io ti conosco. Voglio dire, te lo giuro, guarda, lo ricordo hanno se fatto fosse bene dal loro punto di vista. Però Bottas è il vero vincitore del Gran Premio in Spagna, perché ha eliminato l'altra Ferrari, perché se ci fosse stato il santo bevitore in pista non avrebbero potuto adottare quella strategia lì, eh? È che la Ferrari si è trovata con solo Vettel messo certo, nella tenaglia di una soluzione, diciamo così, è stata una cosa un po' ciclistica. Sì, bravo, assolutamente, sono stati cinici ma bravi, io faccio loro i complimenti. Però penso che questi tappi, io ho sempre preferito le lattine, non le Red Bull, che mi dà quelle a strappo. E lasciami dire una cosa, dato che hai fatto sentire prima l'audio di Vasil, che il sorpasso di Vettel sul tappo finlandese. Con la polvere che si alza, chiedo scusa ai nostalgici, che figa, ma veramente finta contro finta ruote sull'erba. Ho rivisto Gilles Villeneuve. Quella è adesso non dirle grosse, ma tanti più giovani non l'hanno mai visto il canadese, ma voglio dire, è stata veramente una cosa straordinaria che dimostra peraltro quale sia lo stato di grazia di Seb, perché lui, avendo capito che ha una macchina per potersela giocare con il nero fino alla fine, riesce veramente a fare delle cose fantastiche. Se tu prendi la corsa di ieri, la partenza è formidabile, no? Che si beve il nero come se fosse un chinotto, un negronito, come diceva Celentano nel film Yuppidù, no? Poi dopo va in fuga, si libera del tappo Bottas, resiste al primo attacco di Hamilton. Tutto questo non è stato sufficiente per portare a casa la vittoria, però veramente un pilota che attraversa una fase di forma sia mentale che fisica eccezionale, assolutamente eccezionale. Una gentile ascoltatrice, chissà perché scrivono tutte a te, sono anziano, inattivo, e quindi proprio posso essere trattato come il vecchio ricoglionito. Non dice il premio rododendro, per favore. Beh, allora il rododendro di ieri va dato chiaramente al santo bevitore Raikkonen e Verstappen, che incolpevoli dopo una curva avevano già finito il Gran Premio. Tra l'altro erano primo e secondo classificato dell'edizione precedente del Gran Premio di Barcellona. Io non credo che Verstappen avrebbe potuto fare granché, perché la Red Bull è la grande delusione del campionato. Ricciardo si è classificato terzo, ma ha preso quasi un giro da Hamilton e Vettel. Però insomma non è mai bello quando due campioni, non per colpa loro, certo, si debbono ritirare senza aver completato nemmeno un giro. Quindi il rodo dentro va entrambi, assolutamente. Beh, però ci divertiamo come le scimmie quest'anno, Turrini. Beh, guarda, io credo, se mi concedi una divagazione mnemoica, erano tanti anni che non vedevamo un campionato con due macchine diverse, attenzione, perché diverse, a volte è vero, accaduto. Vedi Hamilton Rosberg l'anno scorso, no, anche nelle stagioni precedenti, ma avevano entrambi la stessa Mercedes. E qui bisogna tornare all'Alonso Vettel del 2012, grosso modo, ma la sensazione che ho io è il Schumacher-Häkkinen alla fine del secolo scorso, inizio nuovo millennio, 99, 2000. Ma che c'eri? 98, c'ero, sì. Quando le macchine erano molto vicine come prestazione, e ogni gara tra Ferrari e McLaren era un corpo a corpo, e questo devo dire, insomma, è incoraggiante, perché ok, sappiamo Vettel, no? Il posto di Schumi nella cameretta da bambino, poi ieri ho fatto bene a citare questo bambino lì, no? Giustamente gli innocenti, i puri, per chi fanno il tifo, per chi mi Raikkonen, perché mi Raikkonen, ma è maestra, claro, ma fratello mio, corrotto prima di essere corrotti dal potere, fanno il tifo per la purezza del santo bevitore. Ma in chi ci si riconosce? Ci riconosce nel biondino, nell'ultimo campione del mondo Ferrari, hai capito? E adesso, tra l'altro, visto anche in quello che fa quell'indimenticabile pubblicità, una delle più belle che ho mai visto. Che cosa ci fai qui? Non lo so, no, ma quella lì è stato uno dei pezzi della nostra vita, posso dire assolutamente. Ma poi, se vuoi parlare di sport, guarda, io ti ricordo quando Raikkonen vinse il suo mondiale con la Ferrari, la Fiat, tanto non è pubblicità perché è una roba vecchia, fece la pubblicità di una sua macchina, che ricordo. C'era Raikkonen al volante con Schumacher al suo fianco, sì. E Raikkonen guida e Schumacher continua a dirgli ogni curva stai attento, fai così, no ma guarda che là c'è un incrocio, c'è un semaforo, eccetera, e Kimi non dice mai nulla, e a un certo punto accosta la macchina a destra, estrae la chiave dal cruscotto, la lancia e Schumacher gli dice e adesso guida tu, è l'unica frase che dice in tutto, e devo dire è una genialata lì del creativo che aveva capito benissimo, capito il personaggio Kimi Raikkonen, però volendo appunto stare su questo, ieri abbiamo capito anche dal modo corretto ma spregiudicato col quale Mercedes ha usato Bottas che questo tra Vettel e Hamilton paradossalmente rischi di essere un campionato che sarà deciso dai numeri due. Sì, assolutamente. Assolutamente, diventa fondamentale. Quindi il santo bevitore diventa fondamentale in questa lotta. E io sono a favore, lo sarò sempre, dei giochi di scuderia. Leo, ti voglio bene, ti ringrazio, ti abbraccio. Anch'io chiudo la puntata. Ti auguro buon proseguimento. Io sto fermo dietro questo camion di tappi. Chissà quanto resti lì. Ti mando De Luca con degli approvvigionamenti, il nostro autore. Ciao Leo, ciao. Gianmarco Ferronato in regia, Edoardo Lavezzano in redazione, ci sentiamo domani alle 2, ciao. Abbiamo visto abbastanza, ciao a tutti. Saluti.